Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Le elezioni rappresentano il momento più alto della vita democratica, da affrontare sempre con fiduciosa serenità. Il loro ritmo, costituzionalmente previsto in qualsiasi ordinamento democratico, è fisiologico. Avete sentito, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, Mattarella oggi, Presidente della Repubblica, ha detto a proposito delle elezioni, il momento dell'elezione, uno dei più alti insomma della democrazia, e va vissuto con fiduciosa serenità. Insomma, voi lo sapete che la campagna elettorale è iniziata un po' e tutta questa serenità al momento non sembra che ci sia. Torneremo quindi sulla politica. Fra l'altro, oggi Mattarella ha parlato al Quirinale nella cerimonia per gli auguri di Natale, di buone feste alle alte cariche dello Stato, e sembra che ci fosse un parterre un po' particolare e vari, diciamo, esponenti politici e delle istituzioni che si tenevano un po' a distanza proprio relativamente agli scontri di questi giorni, anche in particolare per esempio sulla vicenda delle banche, sulla quale torneremo ancora nello spazio politico. E poi un altro tema su cui avremo modo di ritornare è quello dell'annuncio dell'Austria di ieri, del quale abbiamo parlato proprio ieri con Reinhold Messner, cioè sull'Austria, che ha proposto di dare entro il 2018 il doppio passaporto ai sud tirolesi. L'Italia si è fatta sentire, l'Europa anche. Messner, l'avevate sentito ieri, era molto contrariato, seppure lui di madrelingua tedesca. Ci ritorneremo anche con il sottosegretario agli esteri della Vedova, che dovremo raggiungere più tardi. Quindi tenetevi pronti per un'ora fitta come sempre di notizie, che tra poco vi riassumerò nel sunto della giornata, e poi cominciamo con i vari temi, con i vari ospiti. Per intervenire, lo sapete, interagire qui con Effetto Notte, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte per scrivere le vostre opinioni, le vostre riflessioni, oppure inviatele via SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Allora, intanto sentiamo che giornata è stata. Il Brindisi al Quirinale, Mattarella incontra i vertici dello Stato per gli auguri e richiama i partiti alla responsabilità. Le audizioni sulle banche, il governatore Visco in commissione d'inchiesta difende l'operato della Banca d'Italia, e su Renzi dice: domandò di Banca Etruria ma io non risposi. L'inchiesta su Veneto Banca, sequestrati beni per un valore di 59 milioni di euro. Il doppio passaporto per i sud tirolesi, il neocancelliere austriaco Kurz, dopo l'annuncio di ieri, raddrizza il tiro e specifica: si farà solo in accordo con l'Italia. Roma, l'annuncio di Virginia Raggi: non mi ricandido a sindaca della capitale, è già un successo arrivare alla fine, dice. Terrorismo, arrestato a Genova un marocchino pronto a immolarsi per l'ISIS, era in attesa di ricevere le istruzioni per azioni operative. Made in Italy in vendita, anche il marchio La Perla verso la Cina, a un fondo cinese l'esclusiva per valutare l'affare. Partiamo quindi da questa cerimonia al Quirinale oggi per gli auguri alle alte cariche dello Stato. Il Presidente della Repubblica Mattarella, avete sentito, ha anche fatto un inevitabile riferimento alla prossima campagna elettorale, alle elezioni. Il Capo dello Stato sancisce di fatto l'imminente fine della legislatura, la quale, spiega Mattarella, si sta chiudendo in modo ordinato e stabile. Da qui l'importanza di questo momento, visto il processo elettorale che sta per avviarsi. Le elezioni rappresentano il momento più alto della vita democratica, da affrontare sempre con fiduciosa serenità. Mattarella parla quindi della legge elettorale. Al di là delle opinioni, spiega, le regole omogenee hanno evitato anomalie. Poi il suo appello alle forze politiche. Il tempo delle elezioni costituisce un momento di confronto serrato, di competizione. Mi auguro che vengano avanzate proposte comprensibili e realistiche, capaci di suscitare fiducia, sviluppando un dibattito intenso, anche acceso, ma rispettoso. E questa inoltre una strada per ridurre astensionismo elettorale e disaffezione per la vita pubblica. Il capitolo economico. La crescita, dice il Capo dello Stato, offre all'Italia una nuova opportunità che va colta dopo anni in cui si sono accentuate le diseguaglianze, con la disoccupazione giovanile ancora alta. Infine un riferimento agli ultimi fatti di intolleranza. L'Italia, ricorda Mattarella, ha gli anticorpi contro il razzismo. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto proseguono le audizioni sulle banche. Oggi in commissione parlamentare d'inchiesta è stato sentito il governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco, Boschi ha detto sulla vicenda di Banca Etruria: mai ho ricevuto pressioni dalla Boschi, una domanda da Renzi su Banca Etruria, ma non risposi. E poi Visco ha escluso che l'allora ministra abbia fatto sollecitazioni di alcuna natura su Etruria, né chiese informazioni riservate nei suoi incontri con il vice direttore generale di Iva Nazionale Panetta, e ha rivendicato il lavoro di vigilanza fatto da Palazzo Coca, appunto da Banca d'Italia. Renzi ringrazia e dice: mi fa piacere che abbia fugato ogni dubbio sul comportamento dei ministri, nessuno di loro ha mai svolto pressioni ma solo legittimi interessamenti legati al proprio territorio. Ma per Di Maio dei 5 Stelle invece Visco svela le pressioni di Renzi. Poi ci torneremo su questo tormentone delle banche. A proposito di banche fallite, emergono nuovi elementi nelle indagini della Procura di Roma sul dissesto di Veneto Banca. Oggi il GIP ha autorizzato altri sequestri a 5 indagati per ostacolo all'autorità di vigilanza. Ecco cosa dicono gli atti. Il senso di quell'operazione lo spiega direttamente uno degli indagati, un piacerino. Ecco cosa doveva essere, stando alle conversazioni dell'imprenditore Gianclaudio Giovannone, quell'acquisto di azioni Veneto Banca dietro finanziamento. E per questo ora la Guardia di Finanza sequestra beni per 59 milioni di euro all'ex responsabile della direzione centrale dell'istituto, al referente degli affari societari, all'ex amministratore delegato del gruppo Banca Intermobiliare, come al responsabile commerciale. Nel decreto che fa scattare i sigilli a case, terreni, auto di lusso e conti correnti, si contestano da un lato quei pacchetti obbligazionari da 7,5 milioni ciascuno acquistati con l'impegno a ricomprarli, dall'altra una serie di prestiti cosiddetti baciati, accordi con tre imprenditori per l'acquisto di azioni con la garanzia di avere poi dalla banca un tasso del 3%, inusuale a detta del nucleo valutario. Scopo di tutto questo: favorire Veneto Banca nei propri obiettivi quantomeno opachi, e che comunque, scrive il GIP, Vilma Passamonti nel decreto di sequestro, senza il loro apporto non avrebbe evidentemente potuto conseguire. Un nuovo tassello nelle indagini sul crack dell'Istituto Veneto. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo adesso alla manovra economica. Prosegue l'esame degli emendamenti in Commissione Bilancio della Camera e il provvedimento approderà domani in aula. Salta la stretta sui contratti a termine e l'aumento dell'indennità di licenziamento senza giusta causa, due interventi previsti da emendamenti alla manovra targati PD. Alla Camera, in Commissione Bilancio, non si è infatti trovato l'accordo politico sulla proposta che riduceva da 36 a 24 mesi la durata massima dei contratti a termine e l'emendamento è stato quindi ritirato. Stessa sorte è toccata alla proposta che aumentava da 4 a 8 le indennità per il licenziamento. Su indicazione del Governo, il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, ha quindi ritirato la correzione. Prevista invece una sforbiciata al bonus bebè, corrisposto ai nati nel 2018 solo per il primo anno di vita e non più per i primi tre anni del bambino. Novità in arrivo anche per le pensioni, che saranno pagate il primo giorno del mese. Via libera inoltre alla riduzione dal 6 al 3% della web tax, che non sarà però estesa al commercio elettronico. Critica l'opposizione. Secondo Forza Italia, alla Camera la manovra è stata trasformata in su. Il bonus bebè è insufficiente, dice Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. E per Stefano Fassina, deputato di Sinistra Italiana, la nuova web tax è un regalo natalizio del PD a Google e agli altri giganti dei servizi su internet. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Oggi è stato l'annuncio di Virginia Raggi, la sindaca della capitale, ha detto che in base alle regole dei due mandati del Movimento 5 Stelle non si ricandiderà dopo la fine di questo mandato. Il primo della Raggi lo aveva già fatto come consigliera d'opposizione al Comune di Roma, e poi ci soffermeremo nello spazio politico anche su questa notizia. La Cassazione ha confermato la condanna a 7 anni di reclusione per Luigi Lusi, ex tesoriere della Margherita, sotto processo per appropriazione indebita per la sottrazione di 25 milioni di euro dalle casse del partito e calunnia nei confronti di Francesco Rutelli. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Lusi, che ora dovrà dunque tornare in carcere e per questa condanna appunto a 7 anni. Terrorismo: un marocchino già in carcere a Genova per molestie, accusato ora anche di terrorismo appunto. Lo cercavano in Italia dall'inizio dell'estate, quando un'informativa di FBI e Europol avvisò della probabile presenza nel nostro paese di Nabil Ben Amir, 39 anni, marocchino, combattente dell'ISIS, tornato in Europa dopo un lungo periodo trascorso in Siria. Lo hanno trovato una sera d'agosto, per caso, a Genova. Aveva picchiato l'ex compagna, di cui l'arresto per lesioni e maltrattamenti. L'analisi del suo smartphone ha confermato i sospetti. Tra i dati cancellati, ai quali la Digos Genova Genovese riuscita a risalire, istruzioni per azionare ordigni esplosivi, video di azioni e di testamenti di attentatori prima di immolarsi. Ora a Nabil Ben Amir è contestato l'articolo 270 bis del codice penale, appartenenza all'organizzazione terroristica dello Stato Islamico. Nell'ordinanza di custodia cautelare si legge che il marocchino, in contatto con un gruppo ristretto di fondamentalisti attraverso WhatsApp e Telegram, era pronto a mettere in pratica azioni suicide nel nome di un mandato ricevuto dallo Stato Islamico. Attendeva solo un ordine. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Il caso del doppio passaporto per i sudtirolesi annunciato dall'Austria, il neo cancelliere austriaco Sebastian Kurz oggi, dopo la prima riunione del governo di Vienna, ha cercato di raddrizzare un po' il tiro rispetto all'annuncio di ieri di un suo ministro, in seguito alle polemiche che ne sono scaturite. Si tratta, ha detto, di qualcosa che ovviamente intendiamo realizzare soltanto in stretta cooperazione con l'Italia e col governo di Roma. Nel nostro programma, ha detto Kurz, siamo venuti incontro a un desiderio dei sudtirolesi espresso da tutti i partiti e soprattutto dallo stesso governo provinciale del Sud Tirolo. Ieri ne abbiamo parlato qui in Effetto Notte con Reidel Messner, che è il più famoso altoatesino, e ci torneremo poi in questa puntata. Ancora all'estero, il sistema di difesa dell'Arabia Saudita ha intercettato in volo un missile lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen, indirizzato al Palazzo Reale di Riyadh. Frammenti del missile sono caduti in diversi quartieri della città, ma non sono segnalati feriti e danni. Invece, feriti ci sono e anche purtroppo morti in questo incidente, adesso stanno arrivando altri aggiornamenti, che c'è stato in Messico, di almeno 12 morti, tra cui 7 americani e 2 svedesi, il bilancio provvisorio di un incidente stradale che ha coinvolto un pullman di croceristi che si stava recando a visitare le rovine Maya di Cachacoben, a circa 200 km a sud di Tulum, sulla penisola dello Yucatan. Il pullman della costa Maya Maualà si è rovesciato sull'autostrada, secondo il portavoce della Protezione Civile, ma non si conoscono le cause esatte del dramma. Adesso leggo che a bordo ci sono anche italiani, però non ne parlano tra feriti o vittime, insomma dicono che ci sono anche degli italiani scesi da una nave da crociera. Adesso parliamo dello stop del bando, cioè lo stop della Cina al bando che c'era sulla carne bovina italiana. Dovrebbe infatti rimuovere la Cina entro fine anno, dopo oltre 16 anni, il bando alla carne bovina Made in Italy, ma ci vorrà almeno un anno perché il primo carico di carne arrivi in Cina, come precisa Lisa Ferrarini, vicepresidente di Confindustria, intervistata da Sebastiano Barisoni. È un'ottima apertura, però insomma non siamo ancora arrivati a una definizione ben precisa, Lei calcoli che l'anno scorso sulla carne suina, la carne bovina, ok, benissimo, ci vorrà ancora un qualche mese per arrivare alla definizione di tutti i documenti sanitari e quindi ok, però lei calcoli che è un anno che la Cina ha riconosciuto per la carne suina l'Italia come una macro regione del nord, quindi ha riconosciuto l'Italia come se fosse costituita da solo 10 regioni, Marche incluse, Toscana e Marche incluso, il resto dell'Italia è come se non esistesse, e ancora siamo in attesa delle visite che arriveranno l'anno prossimo, i primi dell'anno prossimo, per sdoganare la carne fresca e la carne surgelata suina, e quindi insomma i tempi va benissimo, sono ancora un po' lenti, ma d'altra parte noi dobbiamo dimostrare al mondo che il sistema italiano deve essere e deve essere riconosciuto come un sistema affidabile e un paese affidabile. E sempre di Cina si parla perché il fondo PGM, controllato da Silvio Scaglia, ha dato un'esclusiva di 30 giorni al gruppo cinese Fosun per valutare l'acquisto di una quota di controllo di La Perla, uno dei marchi più noti nel mondo dell'intimo Made in Italy. Abbiamo parlato prima di carne, adesso parliamo di traffico di carne, ma umana. I carabinieri del gruppo di Lamezia Terme stanno eseguendo tra Lamezia Rosarno, vicino Reggio Calabria, e Livorno, un provvedimento di fermo emesso dalla DDA di Catanzaro nei confronti di 7 soggetti, di cui uno italiano e 6 nigeriani, sono accusati di far parte di un'organizzazione in grado di far arrivare clandestinamente in Italia decine di giovani nigeriane, costringendole a prostituirsi con violenze e minacce, con riti di magia nera, per ripagare il debito contratto per il viaggio. Vogliono far scontare loro 30.000 euro. Le organizzazioni criminali nigeriane da anni sfruttano le donne provenienti soprattutto dal sud del paese e il fenomeno è in costante ascesa. Se le strade italiane e europee sono il punto di arrivo, il punto di partenza è Benin City, capitale dello stato di Edo. I numeri della tratta sono impressionanti. Nel 2014 sono arrivati in Italia via mare 1.450 nigeriane, in buona parte minorenni, 5.600 nel 2015, 11.000 nel 2016, 4.000 nei primi sei mesi del 2017. L'80% di loro, stima l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, è destinato al mercato della prostituzione. L'85% di loro viene da Benin City, un mercato da centinaia di milioni di euro. Il sistema è semplice. I reclutatori in Nigeria trovano giovani ragazzi in cerca di un lavoro in Europa e viene promessa loro una vita migliore. Ed è facile perché lo stipendio medio è di circa 80 euro. Il viaggio però costa alcune migliaia di euro e qui entra in gioco lo sponsor o la cosiddetta madame che sta in Italia, a Torino o a Padova per esempio. È lei che paga il viaggio attraverso la Libia e il trafficante. Una volta in Italia la ragazza finisce nelle mani della cellula italiana dell'organizzazione e è costretta a prostituirsi per ripagare il debito che oscilla tra i 20.000 e i 50.000 euro. Il sistema coinvolge le famiglie nigeriane che spesso spingono le ragazze a partire, desiderose di avere rimesse economiche dall'Italia. Coinvolge i preti juju che legano le donne agli aguzzini con riti magici e per i quali si fanno pagare. Coinvolge scuole, religiosi locali, piccoli e grandi trafficanti. Un sistema, appunto, in cui tutti guadagnano sulla pelle delle vittime, quelle che vediamo ai lati delle strade italiane. Questo è il commento di Giampaolo Musumeci e quindi nessun uomo ha l'alibi di pensare che di poter utilizzare queste donne, pensando queste ragazze, queste donne per le strade italiane come se non vedessero l'ora loro di essere usate come delle bambole di gomma, ecco. E adesso chiudiamo invece con il calcio e c'è Dario Ricci perché ci parla di Coppa Italia, le partite, c'è il Napoli in questo momento? Sì, Coppa Italia, cara Roberta, primo quarto di finale in campo al San Paolo al 15esimo. Napoli e Udinese sono ancora sullo 0-0, finora non molte emozioni, curiosità per questo Udinese, reduce dal successo in campionato sull'Inter a San Siro, finora però è il Napoli a menare le danze, ma ancora non si è resa pericolosa dalle parti della porta friulana. Vediamo dopo se si concretizza invece qualche pericolo, nel senso giocoso del termine, per fortuna, dopo con Dario Ricci. Grazie Dario. Adesso ecco, dice, scrive Alessandro, prontissimo su questa notizia, delle notizie risaputo insomma di questo traffico che dura tantissimi anni, anche delle donne nigeriane oltre che quelle dell'est, dice migliaia di nigeriane e le istituzioni lo sanno. E sì, lo sanno, probabilmente potrebbero contrastare decisamente di più, però puntini puntini. Adesso ci lasciamo brevemente, voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Tra poco parliamo di politica. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E cominciamo adesso dopo il riassunto della giornata, avete senz'altro sentito e se invece siete dei ritardatari che non avete acceso puntualmente alle 21, tra poco ogni tanto vi ricordo i fatti principali. Intanto i vostri messaggi che arrivano al 349-238-6666, numero per sms e whatsapp oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Dice questo ascoltatore o ascoltatrice, mettete anche un nome d'arte, dice: discendenti degli italiani emigrati in America Latina hanno anche il passaporto italiano, dice a proposito dell'Austria, poi ne parleremo. Adesso però ci concentriamo sulla politica e a proposito di possibili alleanze post elezioni, perché sapete che questo sistema elettorale, questa legge elettorale ha dei meccanismi per cui saranno indispensabili, nessuno avrà la maggioranza dopo il voto per governare, quindi ci dovranno essere per forza delle alleanze. Floriano dice: qualunque alleanza sarà solo di convenienza, durerà poco senza litigi, troppe e troppo diversi modi di vedere le cose, che fare i denari da spendere, la gestione degli immigrati, la sicurezza, la scuola, le tasse, i bonus, eccetera. Floriano non riesce a vedere alleanze perché dice sono tutti troppo diversi tra loro. Christopher dice: 5 Stelle e Lega, se non fosse che Salvini è troppo succube di Berlusconi, peccato, perché insieme, cioè 5 Stelle e Lega, potrebbero fare belle cose per il paese, soprattutto staccarci dal guinzaglio dell'Unione Europea. Scrive così Christopher. Poi gli altri vostri messaggi, però, dicevo, per i ritardatari, queste le notizie principali di oggi. Il brindisi al Quirinale, Mattarella incontra i vertici dello Stato per gli auguri e richiama i partiti alla responsabilità. Le audizioni sulle banche, il governatore Visco in commissione d'inchiesta difende l'operato della Banca d'Italia e su Renzi dice: domandò di Banca Etruria ma io non risposi. L'inchiesta su Veneto Banca, sequestrati beni per un valore di 59 milioni di euro. La vicenda del doppio passaporto per i sud tirolesi, il neocancelliere austriaco Kurz, dopo l'annuncio di ieri, raddrizza un po' il tiro e dice: si farà solo in accordo con l'Italia. Poi l'annuncio della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che dice che non si ricandiderà. Terrorismo, è stato arrestato a Genova un marocchino pronto a immolarsi per l'ISIS e poi, per quanto riguarda il Made in Italy in vendita, anche il marchio La Perla andrà verso la Cina. Ed eccoci sulla politica italiana, siamo in piena campagna elettorale, inevitabile, quindi di giorno in giorno il racconto, l'aggiornamento su ciò che l'attività politica produce nel bene e nel male, anche ciò che non produce. Ma a proposito di quelli che sarebbero i compiti della politica, approfittiamo quindi delle dichiarazioni che ha fatto oggi il Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale per la tradizionale cerimonia degli auguri alle alte cariche dello Stato. Mattarella ha detto praticamente che la politica deve dotarsi di una visione sul sistema paese. È indispensabile, in definitiva, riflettere e dotarsi di una visione sul sistema paese, su come intendiamo svilupparlo. Questo deve essere il ruolo della politica, l'oggetto del confronto tra le varie parti. Vengono richiesti coraggio e lungimiranza, indicazione di obiettivi e percorsi adeguatamente approfonditi. Insomma, lungimiranza, visione del sistema paese, tra poco ne parleremo con la nostra Betta Fiorito da Roma. Ciao Elisabetta. Buonasera, buonasera radioascoltatori. Adesso ti faccio sentire un po' di audio anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Sentiamo di nuovo Mattarella invece che dice che le elezioni politiche dovrebbero essere il momento più alto della democrazia, no? Sentiamolo. Le elezioni rappresentano il momento più alto della vita democratica, da affrontare sempre con fiduciosa serenità. Il loro ritmo, costituzionalmente previsto in qualsiasi ordinamento democratico, e fisiologico. E a proposito di elezioni, certamente sulle elezioni avrà un certo peso il tema delle banche. Qui elenco a voi e a Elisabetta Fiorito un po', diciamo, i temi più in vista di oggi, che sono la nuova puntata per quanto riguarda le banche con l'audizione del governatore di Banca Italia Visco, poi la sindaca di Roma Raggi che ha annunciato che non si ricandiderà in base alle regole del Movimento 5 Stelle, Di Maio per le eventuali alleanze in vista delle elezioni, secondo una fonte molto accreditata vicino al leader grillino, gli unici veti sono nei confronti di Silvio Berlusconi e di Matteo Renzi. E poi c'è la nascita della quarta gamba del centrodestra che si chiama Noi con l'Italia di Raffaele Fitto. Allora direi, cara Betta, di iniziare dalla nuova puntata dell'audizione relativa alle banche fallite. No, oggi c'è stato Visco, è stato audito e vogliamo sentire che cosa ha detto Visco oggi in commissione parlamentare d'inchiesta. A una richiesta che ci fu su, ma allora non so perché non ci parla di alcune banche adesso in difficoltà, io dissi: caro Presidente, delle banche in difficoltà e della giurisdizione di vigilanza io parlo col Ministro. E parlo col Ministro ai sensi molto stretti di un'interpretazione rigorosa del segreto d'ufficio che noi abbiamo sempre avuto. E sono sicuro che i miei professori hanno avuto nello stesso modo. Quindi di questo non ci fu nessuna tentazione né per me, ma certamente lui la domanda la fece. Ci fu una richiesta legittima, credo, di interesse su quelle che sono le questioni di territorio in quel caso. E il dottor Panetta, vice direttore generale della Banca d'Italia, fu la persona che parlò, come avete letto sui giornali, con la ministra in due occasioni. Gli disse niente? No, perché avevamo già detto all'inizio, io e Panetta, non si parla di questioni di vigilanza riservate. Però devo dire, pressioni? No. Prese cum grano salis, certo, un grano salis di persone mature da parte nostra che sanno che di certe cose non si parla e non si è parlato. Allora Betta, Renzi ringrazia e dice: mi fa piacere che Visco abbia fugato ogni dubbio sul comportamento dei ministri, mentre Di Maio attacca e dice: Visco svela in realtà le pressioni di Renzi. Ma allora, dove sta la verità? Cosa strana, sì, allora, la cosa strana, ora Renzi si nasconde dietro un dito. La cosa strana è che c'è un presidente del Consiglio dei Ministri che si chiama Matteo Renzi, che è di Rignano, quindi area Firenze, che a un certo punto chiede a Visco, perché poi Visco lo dice molto chiaramente, dice: mi stupì tutto questo interesse per Banca Etruria, che è un istituto di credito molto piccolo di cui io non mi sono mai proprio interessato, anzi lui è un po' anche contrario alle banche di territorio, perché dice che poi c'è una commissione tra politica locale e finanziamenti erogati, no? Questo ha fatto subdorare. C'è tutta questa interesse che un Presidente del Consiglio venga a chiedere di una possibile aggregazione tra due banche popolari come la Popolare di Vicenza e Banca Etruria, io pensai fosse uno scherzo e non risposi. Quindi questo qui è un po' strano. Dopo un po', c'è la ministra Mariana Boschi, che è del territorio, quindi di Arezzo, eccetera, che va a chiedere notizie. A quel punto Visco manda il vice direttore di Banca Italia, che è Fabio Panetta, e lui ascolta la ministra, non dice nulla e prende atto delle preoccupazioni per questo comparto degli ORAF di Arezzo. Ora, tutto questo non è assolutamente, non ha profili penali, però profili politici, perché è di fatto un conflitto di interessi, cioè nel senso che è strano che un consiglio dei ministri, cioè che il Presidente del Consiglio dei Ministri si interessi di una banca così piccola, che la ministra in questione, dopo che è ministra, il padre prende un ruolo di prestigio di questa banca, che magari poteva anche evitare, no? Per una sorta di conflitto di interessi, e poi va a chiedere, ma è vero che la Popolare di Vicenza... Allora, io dico che tutto questo finirà in una bolla di sapone dal punto di vista penale, non ci sono rilievi, però io credo che sia inopportuno dal punto di vista politico, anche se poi Visco ha aggiunto che lui riceve ogni giorno presidenti di regione, presidenti di consigli regionali che gli chiedono delle banche, di quella banca sul territorio, di quell'altra. Quindi è una prassi che loro si sentano chiedere queste cose, alla quale loro comunque fanno il muro di silenzio. Quindi intanto la Banca d'Italia ha detto: noi non abbiamo detto mai nulla, abbiamo recepito queste preoccupazioni. Però tutto questo va bene se un presidente di regione, se un presidente della... Non col presidente del consiglio, con una ministra. Però Betta, diciamo che la puntata... con la ministra pure, anche se inopportuno, va anche bene, perché era il suo territorio da Rizzo. Il suo collegio. Certo che sì. No, che con il presidente del consiglio Matteo Renzi non va bene, perché bisogna interessarsi di una banca così piccola. Il presidente del consiglio deve rappresentare tutta la nazione. Betta, tra l'altro, diciamo che il pezzo forte, la puntata forte di questo tormentone delle banche sarà domani con Ghizzoni, no? Ex amministratore delegato di Unicredit, perché lì si capirà, no, ricordiamo quello che aveva scritto, che aveva annunciato De Bortoli nel suo libro, la parte dove c'era scritto che Boschi si era interessata con Ghizzoni, mentre lei aveva detto poi in Parlamento: io non ho, se non sbaglio, non ho mai avuto, non ho parlato con Ghizzoni di questo. Ma lei dice che non ha parlato, poi invece in realtà parla, magari chiede, non è che fa pressioni, però comunque chiede. Però domani sapremo da Ghizzoni, finalmente, no? Sono tanto tempo. E chiaramente tutti quanti ci stiamo domandando che cosa farà questo Ghizzoni, perché poi ci sarà lo scoop, no? Allora, Ferruccio De Bortoli aveva ragione, oppure queste anticipazioni dei libri dei direttori, no? Sono sempre un po' fumose. Sapremo domani, sentiremo proprio che dice Ghizzoni, perché lì potrebbe essere, possiamo dire, un po' diciamo la deadline o il momento in cui o si scagiona completamente l'ex ministra Boschi, attuale sottosegretario della Presidenza del Consiglio, oppure finisce ulteriormente nei guai. Anche qui, Roberta, io non credo che si scagionerà. È un'opportunità. Allora, sì, no, abbiamo capito della questione dell'opportunità politica. Questo qui anche del padre della Boschi andrà a finire una bolla di sapone. Detto questo, in un momento così, eccetera, io trovo inopportuno che lei, il momento che si è fatto il governo Gentiloni, sia voluta entrare per forza come sottosegretaria, visto che c'era questa tegola, no? Certe volte è meglio far passare la bufera dal punto di vista politico e poi, no? Riproporsi e magari riproporsi dicendo: mi hanno accusato falsamente, se è così. Betta, a proposito di possibili passi indietro e per aspettare un altro turno, no? Si diceva anche ieri, chiedevo alla nostra commentatrice del Sole 24 Ore, se un passo indietro di Renzi in questo momento, come per esempio Alfano, anche se diciamo in termini diversi ha fatto per Alternativa Popolare, perché Berlusconi non l'avrebbe ripreso il gruppo di Alternativa Popolare se ci fosse stato dentro Alfano, che era il suo ex Delfino, che poi in qualche modo l'ha tradito, eccetera eccetera. Allora, se lo facesse Renzi, forse il PD potrebbe non solo salire nei consensi, ma Di Maio, secondo le indiscrezioni, potrebbe dopo le elezioni, visto che sono tutti costretti a fare una alleanza con qualcun altro, perché nessuno con questa legge elettorale avrà la maggioranza il giorno dopo il voto, è possibile che da indiscrezioni che il Movimento 5 Stelle sia lei con il PD derenzizzato? Come è stato detto. Allora, intanto Matteo Renzi, per come è fatto, non lo farà mai, e in questo gli do ragione, perché voglio dire, è un leader di un partito che è stato votato da 2 milioni di persone, perché deve fare un passo indietro, perché al limite Di Maio, se diventa il primo partito, no. Allora, i 5 Stelle in questo sono assolutamente inaffidabili, questo bisogna dirlo. Ci ha provato Bersani, e che era più compatibile con loro, e non hanno fatto il governo, perché un domani dovrebbero fare il governo col PD derenzizzato, perché lo vogliono distruggere. Strategicamente a livello politico ci sta, però è ovvio che Renzi, e spero anche per i democratici, non per il Movimento 5 Stelle, cioè è giusto che il Movimento 5 Stelle abbia speranze di distruggere anche il PD e di avere più voti possibili, come è giusto che il PD resista e dica no, noi rimaniamo sulla linea del Piave. Ecco, questo secondo me è molto, molto importante. Senti, a proposito di alleanze, vediamo cosa auspicano le ascoltatrici e gli ascoltatori. Cristiano dice 5 Stelle PD, appunto, rispetto a cosa stavamo dicendo. Poi Danilo dice temo che ci sarà l'accordo PD Forza Italia, gioco forza Berlusconi. Berlusconi lo ha già detto chiaramente, se non ci sarà una maggioranza avanti con Gentiloni, che dire di più, dice Danilo. Giovanna scrive, la mia speranza è che qualunque sia, che il nostro paese possa finalmente trovare un equilibrio e farci progredire. Poi Cristiano, 5 Stelle e ma, l'assonanza lessico astrale è perfetta, 5 Stelle e ma Stella, forse Maria, come si chiama, Maria Stella Gelmini, boh. Luciano, speriamo nessuno, ognuno deve mettere la propria faccia e faccia bene o faccia male. E poi qualcuno dice, io spero, dice Fortunato, io ho deciso di votare il Movimento 5 Stelle, mi auguro, anzi sono convinto che non ci sarà alcuna alleanza, però saranno più o meno costretti, insomma, se devono fare una maggioranza di governo. Per chiudere, cara Elisabetta, che abbiamo ancora pochissimo tempo, l'annuncio della sindaca Raggi, che ha detto che non si ricandida in base alla regola del Movimento 5 Stelle, non si possono fare più di 2 mandati, e lei il primo l'aveva fatto come consigliera d'opposizione, no, a Roma. Vogliamo sentire il passaggio di Raggi? Sì. Si potrà ricandidare o... In base alla regola dei 2 mandati direi di no, insomma, no? La regola è chiara e insomma, ce la siamo data, mi sembra chiaro. Lei dice già un successo arrivare alla fine. È questo Roberta, cioè qui è già un miracolo se lei arriva alla fine di questo suo mandato. Perché insomma, se Spelacchio insegna, e sono 2, ricordiamo chi è Spelacchio, chi non lo sapesse, questo povero di Natale che albero, che sì, costa 50.000 euro di cittadini. Piazza Venezia, viene dalla Val di Fiemme, dicono che era molto rigoglioso quando è partito, cioè, da lì, dal Trentino Alto Adige, poi anche quello dell'anno scorso era penoso. Oggi è stata decretata la sua morte, di Spelacchio, proprio sì, non ce la fa. Ma insomma, io poi sugli abeti, ora sui pini, quello che è, insomma, poi si potrebbe fare un abete rosso, albero. Sì. Sì, ma insomma, si potrebbe fare anche un bellissimo albero di Natale, sintetico. Dicono che inquina la plastica, leggevo, quindi ha voluto farlo. Insomma, dura 20 anni, quindi inquinerà sicuramente di meno che tagliare 20 alberi, no, ogni anno. Però gli ha fatto un bel dispetto alla sindaca, pure Spelacchio. Qui c'è una specie di congiura, non ma so certo, come dire. È sempre una congiura, la congiura dell'immondizia, la congiura dei frigoriferi, cioè... Il problema è che io non credo che Virginia Raggi arriverà alla fine della consigliatura, perché Roma è un disastro. Io sono romana, vivo in questa città ed è terribile. Quanto manca ancora alla fine invece del mandato? 4 anni? Poco meno forse, sì, più o meno. Spelacchio è la prova della sua incapacità. Vabbè, spesso dal colpa anche di Spelacchio. No, 50.000 euro. È un albero che forse ha avuto un tracollo, no, non gli è piaciuto l'area di Roma. C'è un'incapacità che è dimostrata per il secondo anno, e che non è solo su Spelacchio, ma anche sull'immondizia. Insomma, lei penso che stia mettendo le mani avanti per non cadere indietro.

E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, proprio nel momento giusto, e con voi, se volete, anche la giusta conduttrice Roberta Giordano. Allora, abbiamo parlato lungamente di tutti i temi politici in primo piano oggi, dal tormentone dell'audizione sulle banche all'annuncio della sindaca Raggi, alle possibili alleanze. Adesso cambiamo argomento e ritorniamo su un tema che abbiamo in parte trattato anche ieri, che ha creato molte polemiche e reazioni, e quindi oggi ci ritorniamo. Intanto vi ricordo tra pochissimo le notizie principali, per chi non avesse acceso puntualmente su Effetto Notte alle 21, come sempre dovete fare tutte le sere dalle 21 alle 22, in modo che un giorno non potrete dire di una notizia importante: io questa non la sapevo. Allora, i fatti principali di oggi sono questi. Mattarella, che oggi al Brindisi al Quirinale ha incontrato i vertici dello Stato per gli auguri e ha richiamato i partiti alla responsabilità. Le audizioni sulle banche che vanno avanti, il governatore Visco è stato ascoltato oggi in commissione d'inchiesta, ha difeso l'operato della Banca d'Italia e su Renzi ha detto: domandò di Banca Etruria ma io non risposi. L'inchiesta su Veneto Banca, sono stati sequestrati beni per un valore di 59 milioni di euro. Del doppio passaporto per i tirolesi parleremo tra pochissimo, e poi abbiamo detto l'annuncio di Virginia Raggi che non si ricandida a sindaca della capitale, dice già un successo arrivare alla fine. Terrorismo, arrestato a Genova un marocchino pronto a immolarsi per l'ISIS, era in attesa di ricevere le istruzioni per azioni operative. Made in Italy, in vendita anche il marchio La Perla verso la Cina, un fondo cinese l'esclusiva per valutare l'affare. E poi questa notizia che arriva dal Messico, di cui vi ho detto poco fa che c'è stato questo incidente di un pullman che si è ribaltato nella zona dello Yucatan, c'erano diversi turisti, si parla di una dozzina di morti, di diversi feriti, e siccome per la questione del doppio passaporto è in collegamento anche il sottosegretario agli esteri Benedetto Della Vedova. Buonasera, Della Vedova. Buonasera. Le vorrei chiedere anche se avete aggiornamenti, perché c'è scritto che dalle agenzie che c'erano anche degli italiani comunque a bordo. Guardi, so che c'erano degli italiani a bordo. Le notizie che ho io è che c'è una verifica in corso della Farnesina. Da parte della Farnesina per capire se effettivamente c'erano italiani a bordo oppure no, e nel caso se hanno riportato ferite di che natura, ma non ho ancora informazioni. Ulteriori dettagli, precisi. Sì, adesso anch'io man mano controllo. Invece adesso parliamo dell'annuncio di ieri da parte del governo dell'ultradestra dell'Austria, quello di voler offrire entro il 2018 il passaporto austriaco ai cittadini dell'Alto Adige dichiarati di lingua tedesca e ladina, i cosiddetti sudtirolesi. Non si sono fatti aspettare le reazioni. Alfano, ministro degli esteri, ha detto: sarà una discussione da affrontare con grande delicatezza. Il governo si è appena insediato austriaco, ne parleremo nei termini che sono assolutamente più coerenti. Poi l'Europa ha già fatto sapere di essere contraria per voce del presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, e ieri qui a Effetto Notte è stato ospite Reinhold Messner, poi ripreso dai vari media, proprio sentito qui a Effetto Notte, scrittore, grande alpinista di fama internazionale, esploratore, scrittore di cittadinanza italiana ma di madrelingua tedesca, e ha detto insomma che era piuttosto contrario. Sentiamo che cosa ha detto ieri, proprio un breve passaggio di tutta la chiacchierata che c'è stata ieri a Effetto Notte. Tutto questo dimostra che la nostra identità sudtirolese è molto debole, perché se uno è conscio del fatto che è sudtirolese, cittadino italiano, europeo e non austriaco e non tedesco e non italiano, io non sono italiano, ho la cittadinanza italiana e sono fiero di avere questa autonomia che abbiamo conquistato in più di 40 anni. E noi sul tirolese siamo una piccola parte di questa Europa, però abbiamo già la base di diventare europei, perché possiamo parlare in più lingue e perché abbiamo capito e direi quasi digerito due culture. E questa oggi è la nostra forza, e con questi giochetti che portano soltanto voti di qua e di là, io non sono contento, perché vengono anche questi politicanti dall'estrema destra. Ecco, questo è il commento che ha fatto ieri, in breve perché è stata molto più lunga la chiacchierata, di Reinhold Messner qui a Effetto Notte. Sentiamo, prima della pausa per aggiornare chi viaggia, anche che cosa ha detto invece a Effetto Giorno, ospite di Simone Spezia, Renzo Carameschi, che è sindaco di Bolzano. Credo che sia proprio un atteggiamento di rinfocolare quello che si era sedato nel corso degli anni con l'autonomia dell'Alto Adige, con un'Italia che è stata veramente intelligente, che è un esempio di convivenza. No, andiamo nella direzione di quello che è successo in Jugoslavia. Siamo partiti con queste sciocchezze, poi siamo arrivati dove siamo arrivati. Allora, Benedetto Della Vedova, sentiamo giusto gli aggiornamenti per chi sta viaggiando e poi ci ritroviamo, ci dice che cosa ne pensa, qual è la posizione del governo italiano. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Allora, sottosegretario Della Vedova, ha sentito Messner di madrelingua tedesca ieri qui a Effetto Notte, che cosa ha detto? Sono giochi politici che tendono soltanto a creare ulteriori conflitti, questo annuncio da parte dell'Austria del doppio passaporto, e anche il sindaco di Bolzano addirittura ha detto avevano cominciato così anche Jugoslavia. Cosa ha intenzione di fare quindi prossimamente il governo italiano? Oggi dicevo che Kurz ha raddrizzato un po' il tiro, ha detto faremo soltanto questo progetto, andrà avanti soltanto in accordo con l'Italia. Ma guardi, io ritengo quella di Kurz una marcia indietro, era giusto che la facesse, credo che il grave errore compiuto dal governo tedesco sia stata la marcia avanti, l'ha detto Messner, che sicuramente, come si sente, è un esponente della comunità di lingua tedesca, di cultura tedesca dell'Alto Adige, ma quest'idea avanzata da Kurz e dal vice cancelliere Strache, che è leader di un partito antieuropeista esplicitamente, adesso la notizia è che Strache, entrando al governo come vice cancelliere, ha rinunciato al referendum per l'uscita dall'Austria dall'Unione Europea, che va bene, ma questa è la cultura che lo muove. Quest'idea di concedere unilateralmente e in massa alla popolazione di etnia e lingua tedesca, di etnia e lingua ladina, residente in Alto Adige, la cittadinanza austriaca, non è, come è stato, come hanno cercato di dire, il guanto di velluto dell'europeismo. Celava il pugno di ferro dell'etnonazionalismo, che è una bestia che noi europei continentali, non la mia generazione, quella di mio padre, hanno conosciuto e da cui bisogna stare alla larga. Non si scherza col fuoco. Ha ragione il sindaco di Bolzano, il passato della ex Jugoslavia, guerra così vicina a noi, ma il presente della ex Jugoslavia, l'ex Jugoslavia pacificata in paesi come la Bosnia e Erzegovina, il Kosovo, è pacificata proprio perché la comunità internazionale è a fianco di stati che devono formarsi, crescere, radicarsi nella libertà e la democrazia sulla base della multietnicità. Se altrimenti diamo il messaggio che dove c'è un'etnia, lo Stato, una minoranza, eccetera, si dà la cittadinanza in modo. Quindi bene la marcia indietro, era stata grave la marcia avanti. Sottosegretario, prima di lasciarla, purtroppo devo aggiornare qui dal Messico, è arrivata adesso un'agenzia, tra i morti e feriti dell'incidente che ha coinvolto il bus turistico in Messico ci sarebbero anche cittadini italiani e canadesi, oltre che messicani. Adesso non dicono se tra i feriti e i morti. Comunque la lascio andare, che sicuramente avrà molto da fare anche su questo tema. Grazie intanto, sottosegretario Della Vedova. Grazie, buon lavoro. Vittorio Darold, del Sole 24 Ore. Ciao Vittorio. Ciao. Senti Vittorio, dal punto di vista dell'Europa, come diceva anche Messner, ha senso tutti questi nazionalismi, avere un doppio passaporto? Poi anche per gli atleti cosa succederebbe, no? Ma sì, è veramente una situazione paradossale. Prendiamo il caso di uno sportivo, appunto altoatesino, che spesso eccellono appunto nelle discipline alpine, ma fanno parte delle Fiamme Gialle, quindi della Guardia di Finanza o dell'Arma dei Carabinieri. Cosa avverrebbe con il doppio passaporto? Addirittura che dei militari avrebbero quindi la doppia nazionalità, una cosa assolutamente impossibile e paradossale. Oppure cittadini appunto italiani col doppio passaporto, e dato che in Austria c'è il servizio militare di leva, dovrebbero essere esentati, perché altrimenti dovrebbero andare a fare il servizio militare in un altro stato. Insomma, è una situazione assolutamente priva di senso in un contesto appunto dove non si cerca di evitare appunto sempre di più confini, muri e cose di questo genere, fili spinati eccetera. Comunque è la notizia di cui i grandi giornali come il Washington Post ha parlato ampiamente. Oggi l'Italia era proprio su questo tema, insomma, all'Austria che chiede la doppia cittadinanza e l'Italia che reagisce duramente. Insomma, Washington Post che è il giornale della classe politica legge appunto negli Stati Uniti. Quindi addirittura ha avuto questa risonanza. Comunque mi è parso il sottosegretario della Vedova, sottosegretario degli Esteri, piuttosto netto sulla questione, quindi ha parlato di una marcia indietro, quindi era stata una fuga in avanti, quindi forse probabilmente in parte si fermerà qui, oppure poi ci saranno, non lo so, comunque si scenderà dei compromessi. Vedremo un po' come procederà l'Austria anche in questo senso. Dall'altro il governo è appena insediato e quindi forse aveva bisogno così di lanciare subito un messaggio molto forte. Grazie Vittorio D'Arold del Sole 24 Ore. Grazie a voi. Ciao Vittorio. Buon lavoro. Grazie a te. Ora invece ci ricolleghiamo con il nostro Dario Ricci, caro Dario. Eccomi. E che succede delle partite in corso, anzi della partita, perché in Coppa Italia succede Napoli-Udinese. Sì, sono sullo 0-0 alla fine del primo tempo, un Napoli che cerca di sfondare, ma una bella Udinese in ottimo momento di forma, rigenerata dalla cura Oddo, che come sapete da qualche settimana ha preso il posto di Del Neri in panchina, e quindi partita ancora aperta. L'ultima volta che c'era la Coppa Italia abbiamo fatto le ore piccole, Roberto, ti ricorderai, col Pordenone che sfiorò l'impresa a San Siro contro l'Inter. Eppure oggi, insomma, chiaramente match più equilibrato oggi perché sono entrambe squadre di Serie A. Però, insomma, molto aperta, molto aperta. Senti, abbiamo ancora un minuto, Dario, per far sentire cosa ha detto l'amministratore delegato Fassone a proposito della sconfitta, diciamo, abbastanza umiliante del Milan con il Verona. Abbiamo pensato che lo stare insieme questi quattro giorni prima della partita di sabato, che assume un rilievo speciale a questo punto, diverso da quello che avrebbe assunto se il risultato fosse stato diverso, per parlarci, per stare insieme, per scoprire cosa non va, per risolvere i problemi, perché questo gruppo ha bisogno evidentemente di questo, e forse anche di capire con delle cose che sono simboliche, che appartengono forse un po' al vecchio calcio, il valore di essere Milan e che cosa può rappresentare una sconfitta come quella di domenica, che abbiamo vissuto come un'umiliazione e che non deve più succedere. Spero che queste giornate di pensiero ci aiutino. Momento di riflessione, in questi 30 secondi, Dario, cosa vuoi, come vuoi confortare Fassone? Ma insomma, vedremo quale sarà la risposta del campo tra sabato con l'Atalanta a San Siro e poi mercoledì prossimo la sfida, il derby di quarti di finale di Coppa Italia con l'Inter. 10 secondi solo per ricordare il bel risultato di una donna azzurra oggi, cara Roberta, perché Manuela Mölg ha conquistato il terzo podio stagionale per lei in Coppa del Mondo nel gigante di Courchevel, vinto dalla Schifrin. Parliamo chiaramente di Coppa del Mondo di sci. Buon viatico in vista delle prossime ormai imminenti Olimpiadi invernali. Hai fatto molto bene a ricordarlo, grazie Dario Ricci. Noi ci riaggiorniamo come sempre alle 22:00.